Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Purtroppo dobbiamo fare radio perché io non volevo distrarmi, volevo continuare la mia lettura, ma siamo qui nel Groovemaster Studio per dare il via al sound check, il suono della musica, puntata numero 404. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e vado a salutare finalmente il ritorno gradito di una donna eccezionale, Madame Messier, si intitola Silvia Barba, eccola qui. Buonasera Gegè, buonasera a tutti, finalmente bello una qua. Bella voce, meno male che sei tornata Silvia, perché il tromba mi iniziava a stare, ecco, non posso dirlo dove, ma basta con questo tromba, che no, soprattutto per un motivo, buonasera Francesco. Ciao a tutti. Eccolo, per un motivo non è ordinato come te nella sezione discografica, guarda, lì si vede da parte tua il tocco, la delicatezza, la grazia e la classe tutta femminile nel sistemare le cose. Ci voleva, ci vuole un po' di tocco femminile. Sì, ci vuole, infatti se poi ti puoi trattenere un'oretta in più, cerchiamo di mettere un po' in ordine disastro clamoroso che ha creato nelle ultime settimane tromba nella stanza della discografia. Va bene. Perché io ho un mio ordine caotico. Ho capito, tromba, il tuo ordine caotico lo utilizzi a casa tua. Nel mio studio c'è un ordine che praticamente vorrei adesso intitolare l'ordine barba. Ti piace questo, Silvia? Sei contenta? L'effetto barba. Va bene, stiamo scherzando. Sì, ho dato il via alla puntata dicendo che un po' mi dispiaceva andare in onda, perché quando si inizia a leggere un libro importante, poi, perlomeno succede così a me, io vorrei non fare altro finché non porto a termine la lettura. Ed è quello che mi sta succedendo ormai da stanotte. Ho iniziato questa notte a leggere perché finalmente sono riuscito a procurarmi, devo dire anche per conoscenze importanti, questo libro secondo me fondamentale intitolato Antropologia della musica, scritto da un musicologo, un antropologo musicale eccezionale come Alan P. Merriam nel 1965. Libro introvabile, se non nella versione originale potrete anche richiederlo via Amazon, quindi vi arriverà la versione inglese che io ho letto, ma cercavo anche la traduzione italiana che è stata operata nella prima edizione nel 1983 proprio dalla Sellerio, e il libro non è disponibile. Infatti sono fortunato perché il mio amico Antonio Manzini, che è best seller della Sellerio, ha fatto questa richiesta specifica per me, e io ringrazio Antonio e la Sellerio per avermi finalmente fornito l'edizione italiana di Antropologia della musica, e oggi voglio parlare solo di questo. Va bene, parliamo di questo. Vorrei parlare infatti subito degli indiani testa piatta. Ecco, cioè, ti hanno colpito in particolar modo. Mi ha colpito moltissimo questa cosa degli indiani testa piatta. All'interno del libro Alan P. Merriam analizza l'importanza del canto degli indiani testa piatta, che cantano sempre in coro perché così coprono gli errori dei singoli. Beh, una bella interpretazione della socialità della musica, dai. Sì, ma oggi anche vorrei capire il nostro ruolo nella società, Silvia. Non so se tu ti sei svegliata di notte tutta sudata facendoti delle domande esistenziali. E come? Tipo? A che cosa serviamo? Qual è il nostro ruolo? Brava. In questo mondo così brava, finalmente variegato. Una persona sensibile, perché invece quando si sveglia tromba di notte, a che pensa? Indovina un po'. A Belen Rodriguez. A quello pensa lui. Mi sveglio Vabbè. Comunque tutto sudato. Certo, figurati, me l'ha già detto più volte. Bene, vorrei dare il via alla puntata con la musica, direi di dare il via proprio con i Moonchild, direttamente la solarità di questa band, di questo trio formidabile di musicisti californiani guidati dalla voce della sassofonista, perché suona anche esatto. Il sax e docente di musica lì in California, Amber Navran. Loro sono i Moonchild, il brano si intitola Cure. Bene, prima di parlare del nostro ruolo nella società, voglio dire, a cosa serviamo noi musicisti, noi che facciamo musica, a cosa serve la musica nella nostra società, a cosa serve per esempio un giornalista musicale come Francesco Tromba in una società come quella italiana di oggi? Se lo domandano tutti. Infatti. No, me lo domando io intanto, vorrei capirlo e poi tu mi darai la tua risposta. Direi, Silvia, se puoi dirci due cose sui Moonchild e su questa nuova produzione che sta per essere pubblicata. Esatto, il 26 maggio prossimo esce questo album che si chiama Voyager e uscirà anche in un doppio vinile, quindi c'è anche un ritorno come diciamo ultimamente si fa, escono i dischi in CD, in digital download eccetera, ma soprattutto in vinile, perché il vinile abbiamo detto tante volte quanto sia diventato funziona di culto. E mi piace pensare a questo trio e alla funzione che in questo momento ha. Nella canzone che abbiamo appena ascoltato, Love is the cure, l'amore può essere la cura anche di tanta sofferenza o anche di tanta introspezione. Se lo sono chiesto forse sì, a cosa serve forse la musica. Battiato se l'è chiesto molto prima di loro però, esatto, no? Con una fantastica canzone. È fantastica canzone, senz'altro con un testo più poetico. Beh sì, loro fanno questo genere, però guarda, sono molto considerati, tra l'altro i Moonchild, lo abbiamo detto tante volte, il fatto di essere di aver aperto dei concerti per Stevie Wonder, Jesse James, li ha portati al grande pubblico. È un disco molto sofisticato, molto bello. Non solo, ma poi a un certo punto capisci di aver raggiunto una meta, un obiettivo, quando la tua musica, per quanto tu possa essere un artista indipendente, viene poi utilizzata da grandi DJ o certo, grandi producer che ne fanno la loro versione, quindi i classici remix. È successo anche ai Moonchild? Eh sì, a fare il remix è una nostra vecchia conoscenza, DJ Jazzy Jeff, che era anche un personaggio nella nota serie Il Principe di Bel-Air, era jazz. Con Will Smith, esatto. Sì, era jazz, l'amico di Will Smith. Ma in questo caso, in questa versione di The Truth, brano scritto dai Moonchild diversi anni fa e quindi riproposto in questa versione remix, c'è anche un altro signore che a noi sta a cuore, che è James Poyser. Sì. Eccellente pianista, tastierista, ormai uno dei volti celebri del Jimmy Fallon Tonight Show, perché è proprio uno degli elementi importanti dei The Roots. Sì, e soprattutto anche la sua produzione come producer vero e proprio è sempre una firma. Moonchild versione remix con The Truth. Soundcheck, il suono della musica. Beh, qui c'è poco da fare, è inutile che andate in internet, segnate il suo nome o con Shazam attivato, c'è poco da fare, non troverete mai, non riuscirete mai a raggiungere le informazioni necessarie per capire chi era questo signore, ve lo dobbiamo dire solo noi. No, ce lo devi dire tu, perché anche io ho fatto un po' fatica a trovare delle cose su di lui. Infatti, difficilissimo, si chiama Jay Most. Chi è Jay Most? Un ragazzo di 40-45 anni. Ecco, non è più un ragazzo, producer. Un eccellente artista, ma soprattutto un producer accreditato. E pensate che ha realizzato forse una decina, 10-15 brani a suo nome, non li ha mai pubblicati, non ha mai utilizzato siti di riferimento importanti per la pubblicazione della musica digitale, ne parliamo spesso, Bandcamp o SoundCloud, ma è veramente old school questo signore, perché è rimasto a MySpace, caro Francesco. Sì, eccezionale. È rimasto 15 anni circa indietro. Allora, la cosa è, come fa uno di Foggia ad arrivare a Jay Most? Perché Diccelo. Ho delle amicizie carine, simpatiche, che mi segnalano certe sonorità e certi artisti. Infatti la produzione di Jay Most non è recentissima, è di 4, 5, 6, 7 anni fa, ed è stata proprio la nostra amica Joanna Teeters a segnalarmi Jay Most e alla fine eccolo qui, possiamo dire che Jay Most in qualche modo è un artista cult negli Stati Uniti, lì a New York, e credo che i Moonchild si siano ispirati moltissimo alle atmosfere create da Jay Most. Sì, infatti lo citano come una delle influenze insieme agli Hiatus Coyote. Ho scoperto tra l'altro che si chiama Jeremy Most, il nome di battesimo è Jeremy. Hai capito? Però Tromba riesce ad arrivare. Ma tu sai che cosa dovevi fare? Tu dovevi lavorare nella DIA, credo. Eh? No, dovevi fare il poliziotto, il carabiniere. bene. No, no, servizi credo. Investigativi, una bella agenzia investigativa. Tromba, scopre tutto di voi. No. L'ho scoperto tramite Twitter, perché appunto Emily King ha raccontato che Jay Most è uno dei producer del suo ultimo lavoro, Sleepwalker. Hai visto? Allora, questo era Jay Most, ma abbiamo in qualche modo lanciato un tema portante per la puntata di oggi, cioè il ruolo della musica nella società. Ed è una cosa che io mi chiedo quotidianamente, intanto perché sono un musicista e quindi credo che quando si studia musica, anche nei conservatori ma nelle scuole, in qualche modo si debba anche capire il senso della musica, cioè a che cosa ci serve, perché noi diventiamo dei musicisti, perché ci piace tanto la musica e qual è il ruolo del musicista o di chi ama la musica in questa società. Vi siete mai fatti questa domanda? Ce la siamo fatta, come no? La risposta però è troppo difficile da dare. Allora, se un antropologo come Alan P. Merriam nel 1965 ha scritto quante pagine? 350 pagine sull'argomento, certamente noi non possiamo liquidare in una puntata del Soundcheck l'argomento, però in qualche modo possiamo far riflettere su questa cosa. Io personalmente credo che un musicista debba avere un'attitudine empatica verso il mondo che lo circonda. Quindi essere empatici è già un grande obiettivo. Empatia nel condividere il proprio lavoro, anche nell'essere giudicato per il proprio lavoro. Non è facilissimo essere un musicista poi al giorno d'oggi, non credi? No, assolutamente non è facile lavorare con la musica e non è facile sentirsi un musicista in questa società. Se sei una persona sensibile, no, se poi non hai la sensibilità e non te ne frega niente, fai il musicista, ma potresti fare anche l'avvocato o il notaio. Chiaramente. Senza farti delle domande. Questa è l'empatia di cui parlo io. Poi la funzione della musica è appunto è condivisione. È un'attitudine, anche un atto d'amore, secondo me. Bisogna essere innamorati di quello che si fa, altrimenti cosa trasmetti? Boh. Tromba, non ti vedo reattivo. No, forse hai bisogno di più tempo. Così. Davvero? Sì. Ecco, questa liquida, è già una novità. Liquida la cosa così, eh? No, possiamo anche aggiungere delle altre cose. Beh, certo, vorrei sentire la tua. Io però per te ho proprio la domanda precisa. Qual è il ruolo del giornalista musicale oggi? Beh, in realtà di un tromba. Il ruolo è, ad esempio, no, grazie a un programma radio, grazie comunque a tutti i nuovi mezzi di comunicazione, a cercare di amplificare e diffondere il lavoro dei musicisti, cioè quello che dal mio punto di vista magari può essere valido, cerco di diffonderlo il più possibile, come lo faccio io, lo fanno tanti altri giornalisti, lo fanno anche tanti altri musicisti, DJ, producer, quello che è. La puntata di oggi vuole trattare questo tema perché sono arrivato al capitolo 11° di Antropologia della musica di Alan P. Merriam. Gli usi e le funzioni della musica costituiscono uno degli aspetti più problematici dell'etnomusicologia, per il fatto che con lo studio del comportamento umano, come più volte abbiamo detto nelle pagine precedenti, noi cerchiamo costantemente non solo gli elementi indispensabili alla descrizione della musica, ma anche quelli che ci possono aiutare a comprenderla. La descrizione è utile soprattutto se applicata alla comprensione del fenomeno musicale. Noi vogliamo sapere non soltanto di che natura sia questo fenomeno, ma soprattutto quale effetto provochi nell'ascoltatore e come lo raggiunga. Soundcheck. Il suono della musica. Glenn Lewis partecipa a questo album di The Playlist, il brano era Mr. Grump, che ci fa fare un salto nel passato, sembra quasi un brano tratto da una colonna sonora di un film della fine degli anni 70. Mr. Grump qui al Soundcheck di Radio 24 nel Groove Master Studio con Francesco Tromba all'opera, cercando in qualche modo di rimettere in ordine in maniera alfabetica, giusto? Più o meno alfabetica la discografia che lui in questi mesi di lavoro ha scombinato come solo lui sa fare. Invece il ritorno di Silvia Barba, che mi sembra abbastanza affascinata da questo libro di Alan P. Merriam, che oggi ci sta dando proprio l'occasione di capire a cosa serviamo, perché è un libro importante per chi vuole saperne di più sull'antropologia della musica, sulle funzioni della musica, le funzioni primarie, e anche sul ruolo a questo punto di chi la fa la musica come noi. Esatto, è un libro molto interessante, tra l'altro citato in tantissimi altri libri di etnomusicologia, di antropologia della musica. Tra l'altro consiglio alla Sellerio di pubblicarne di nuovo la versione in italiano, che per te sei stato fortunato e ce l'hai in quanto introvabile, ma per tantissimi altri studenti e appassionati di musica secondo me può essere una lettura molto interessante, nonostante sia stata scritta ormai nel 1964. Sì, attualissimo comunque. Si trova quindi la pubblicazione originale in inglese, ma la versione in italiano della Sellerio non è disponibile. È un quindi peccato. Vi prego, amici della Sellerio, ma lo dico anche per voi, certo, iniziamo a stampare alcune centinaia di copie e poi sono sicuro che riuscirete a metterle in distribuzione e a venderle con facilità. È un disco, è un libro, ecco, vedi, un disco, la deformazione professionale. Esatto. È un libro veramente bello. Anche qui, vedi, quando parliamo degli usi della musica ci riferiamo ai modi in cui la musica viene impiegata nella società umana, alla pratica e dagli esercizi musicali considerati isolatamente o in rapporto ad altre attività. Insomma, io vorrei leggerlo tutto. Lo posso leggere tutto? Va bene. In radio. No, c'era una cosa che avevo... Ecco, questa cosa mi è piaciuta molto. Laddove non esistono uomini che pensano, agiscono e creano, il suono musicale non può esistere. Quindi la musica è fatta per persone pensanti. Ti ha risposto lui. La funzione è quella, è pensare, quella, pensare quella e far pensare. Quindi in Italia, per esempio, per chi è fatta la musica, tromba? Ma in realtà secondo me la musica è per tutti, non solo per chi pensa, cioè non necessariamente deve esserci un fine intellettuale nella musica, può anche essere semplicemente divertimento, intrattenimento, sì, senz'altro. Intrattenimento. Beh, ci sono tutte le funzioni primarie che sono elencate, poi le elenchiamo tutte quante. Sì, certo. Quindi non è solo appunto un fine intellettuale quello della musica, ricordiamolo. No, ma tu che uso ne fai? Tanti vari usi, dipende appunto dai giorni, dall'umore, da tante cose, da quello che faccio mentre ascolto la musica, perché magari appunto se vado a correre sicuramente non ascolto Bach, no? Ad esempio. Perché? Perché Bach sinceramente mentre corri è un pochettino cioè, più rilassante, più intellettuale. Sentiamo cosa ascolti quando corri. Beh, ad esempio, non so, Pharrell Williams, per dire, che comunque c'ha un po' più di ritmo. Comunque la novità è che lui vada a correre, cioè non la musica che ascolta. Io questo volevo dire. Hai ragione, si sta preparando per l'estate, credo. Credo. Fisicamente. Va bene, siamo quasi vicini all'informazione di Radio 24, ma ci arriviamo a questo punto con un altro brano tratto da The Playlist con Glenn Lewis e Danny Jordan. Il brano è Stone Cold. Ci risentiamo dopo l'informazione di Radio 24, quindi qui dal Groovemaster Studio. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte del Soundcheck di Radio 24, il suono della musica qui dal Groovemaster Studio insieme a Francesco Tromba e Silvia Barba e a questo libro favoloso del quale vi stiamo parlando. Ormai mi sono fissato, Silvia, sì, non ne posso fare a meno. Antropologia della musica di Alan P. Merriam, scritto nel 1965. Esiste l'edizione italiana ma non è disponibile. Lo voglio ripetere, no? Lo ripeto, è stata pubblicata dalla Sellerio, anzi adesso fra un po' voglio anche citare chi ha tradotto il testo. Fammi vedere. Intrattieni, tromba. Elio Di Piazza. Elio Di Piazza. Elio Di Piazza è stato eccezionale, no? Lo ha tradotto molto bene, molto chiaramente, assolutamente utile. E non puoi tradurre un libro così se non sei un appassionato di musica. E tra l'altro ne vorrei parlare di questo libro fra qualche giorno a Torino. Ecco, cosa vai a fare a Torino? Vado al Salone del Libro di Torino. Ah. Perché quest'anno per la prima volta viene aperto al Salone del Libro tutto un reparto che riguarderà invece la musica, la discografia, i libri di musica, e sarò lì un po' come padrone di casa, lo sai? No, io leggo, sei il primo testimonial di questa fiera europea della musica. Ecco, il primo testimonial perché per la prima volta viene fatta questa cosa. Non è che sono il primo perché sono il più importante. Siccome si fa per la prima volta, mi hanno chiamato, sono il primo. Poi magari l'anno prossimo chiameranno un altro e sarà il secondo. Va bene, tu però intanto sei il primo. Eh sì, perché il primo non si scorda mai, ricorda. È vero Silvia? Esatto, è così. E quindi mi porterò questo libro, magari la Sellerio riuscisse, ma in una settimana come si fanno a stampare copie di un libro? È un po' difficile, però. Impossibile, però sarebbe una cosa bella. Tra l'altro parlavamo proprio delle funzioni primarie della musica. Le vado ad elencare? Vai. Perlomeno quelle che ho sottolineato nella lettura iniziata questa notte. Adesso lo ripeto, sono arrivato al capitolo undicesimo, usi e funzioni della musica. Dunque partiamo da espressione delle emozioni, quindi attraverso la musica ci emozioniamo, possiamo emozionare ed emozionarci, giusto Tromba? No, ma tu sei insensibile. Assolutamente sì. No? Al caldo e al freddo? Sono sensibile, sicuro? Sono una persona sensibile. Non sei idrorepellente? No. Piacere estetico? Certo. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Anche se poi le cantanti sono belle, quindi ancora di più. Ma non da quel punto di vista. Ma che c'entra, Tromba? Vedi che sei fissato. Tu pensi, sei rimasto alla teoria del booty di... Vabbè, quella è sempre una teoria. La teoria del booty di Joanna Titters. Intrattenimento, e questo lo sappiamo, comunicazione, rappresentazione simbolica, reazione fisica. Questo ti interessa, Tromba? Beh sì, perché ascoltando la musica ci può essere una reazione fisica, ad esempio, che ne so, ballando il reggaeton c'è anche una reazione fisica. No? Fisica, ecco, sempre là va a finire, è fissato proprio. Consolidamento della comunità e delle relazioni sociali. Chiaro. Vado avanti? Sì. Una pausa veramente imbarazzante. Ti ascoltiamo. Convalida delle istituzioni sociali e dei rituali religiosi. A proposito dei rituali religiosi e la musica, vogliamo un po' svecchiare sto repertorio da chiesa che abbiamo noi, che è veramente, lasciatemelo dire, è rimasto, iniziamo a scrivere qualcosa con degli accordi, delle sostituzioni, ascoltiamo un po' di gospel, no? Lo dico proprio, tu vai in chiesa, vai alla messa la domenica? No, perché devi venire qui al soundcheck, questa è la scusa, no? Però insomma, se ogni tanto ti capita di partecipare a qualche funzione, qualche matrimonio, diciamo, funerale, sì, no? La cosa strana è che la chiesa, appunto, cattolica, cristiana in generale, ha abbandonato il ruolo che aveva la musica, che veniva dato in realtà poi nell'epoca appunto barocca, o anche nell'epoca successiva della che affidava classica, le composizioni a dei grandi compositori. Dei grandi compositori, poi è stato completamente abbandonato dall'Ottocento in poi. Si cantano delle canzoncine abbastanza banali, dai. Sì. Contributo, contributo alla continuità e stabilità culturale, contributo all'integrazione della società, e qui ci siamo, facciamo proprio centro con contributo all'integrazione della società. Allora, dicevamo della musica delle nostre chiese, invece andiamo ad ascoltare Sean C. Johnson, un ragazzo casa, chiesa, musica, favoloso. Un church boy si definisce e tra l'altro considera la musica un dono di Dio da condividere e con il quale ringraziare Dio stesso. È un producer, è un cantante, ma è un rapper, tra l'altro, quindi può conciliare le sue passioni attraverso quella che vede come funzione primaria per lui, supporto delle istituzioni sociali e dei riti religiosi. Fisicamente com'è? Ha una barba lunga, bello piazzato, ci piace. Soundcheck, il suono della musica. Una voce accreditata come quella di Maya partecipa al progetto di Gold Link con Roll Call qui al Soundcheck di Radio 24 con Francesco Tromba, che mi guarda molto male perché continua a domandarsi perché quest'uomo di Foggia propone rapper e ancora non vuole mettere in onda Kendrick Lamar con il disco nuovo. Te l'ho già detto, Tromba, perché io sono inflessibile. È è una cosa proprio epidermica la mia. Ti farò chiamare da Kendrick Lamar. Fammi chiamare da Kendrick Lamar per farti rimproverare. No, mi deve convincere. Io voglio parlare, perché dopo un disco bellissimo come To Pimp a Butterfly, dove ci sono elementi che raccontano proprio la storia della società contemporanea, anche da un punto di vista musicale, proprio l'evoluzione, c'è tutto, dal gospel al jazz, è tornato a fare un gangsta musicalmente banale. Lo dico forse anche da ignorante, no, in materia, perché non capisco benissimo il senso di tutto quello che lui dice, perché utilizza uno slang assolutamente incomprensibile per noi e anche per molti americani. Quindi, lasciandomi andare soltanto al piacere estetico della musica e anche quello sensoriale, ti dico che non mi emoziona. No, secondo me, vabbè, poi ci sono opinioni diverse, ovviamente. Certo, ma io sto rispettando la tua opinione. Lo puoi dire che a te invece il disco piace? A me invece piace. Non, diciamo, non tutto, però te lo voglio dire. Almeno 4-5 pezzi sono bellissimi. Quando tu farai il tuo programma radio, lo metterai in onda. Anzi, farò una cosa. La prossima settimana metterò in onda il nuovo disco di Kendrick Lamar e voglio sentire l'opinione dei nostri radioascoltatori. Anzi, voglio mettere a confronto una delle tracce per me più significative di To Pimp a Butterfly con una delle tracce, quale di Humble, a te quale piace? Possiamo fare magari una domenica il confronto tra To Pimp a Butterfly e Kendrick Lamar versus Kendrick Lamar. Esatto. Bella questa cosa qua. Vi comunico che stanno scrivendo dossier sul nuovo album di Kendrick Lamar, anche gli americani. Stanno interrogando moltissimo. Cosa dicono, Silvia Barba? Dicono cose, alcuni molto molto belle, perché molto sottili, c'è una dietrologia positiva dietro a questo album che chiaramente, come hai detto tu, noi non possiamo capire, non ci possiamo arrivare, perché il senso... Quindi non mi devo sentire in colpa? Assolutamente no. Ora, cosa vuoi dire? Che Tromba è più intelligente di me? No. Tromba è in questo caso ha vissuto più empaticamente questa nuova uscita. Kendrick Lamar, no, perché lui è proprio un fan scatenato, anche tu non metteresti mai in discussione D'Angelo se cantasse neomelodico, no? Beh, oddio, non sto parlando di Nino D'Angelo, ma proprio D'Angelo in persona, vero? Non lo metteresti mai in discussione. Come io non metterei mai in discussione Becca Stevens. Anzi, vuoi sapere, fra un po' suono anche Becca Stevens, il nuovo album, che è indiscutibile, non accetto commenti. No, e chi parla? Va bene, andiamo avanti. Allora, che diceva, ma voi venite a Torino? Allora, forse sì, sicuramente quando ci sarai tu. Dici quando ci sarai tu? Allora, io dovrei partire proprio il 17, perché il 18 apre la Fiera del Libro e il Salone del Libro, e quindi dovrei stare lì per tutta questa parte che riguarda la musica. Quindi per tutto il periodo, dal 18 al 22 maggio. Ci sono degli showcase, quindi ci sono gli strumenti, incontrerò degli artisti, faremo delle interviste e sono anche affiancato da uno dei migliori giornalisti italiani di musica, veramente forte, persona che io stimo tantissimo, che conosco molto bene, che è Gabriele Ferraris, che scrive sulla Stampa di Torino. E quindi interviste, dibattiti, incontri nel padiglione 1 del Salone del Libro. Poi il 19 invece, quindi venerdì prossimo, me la suono e me la canto a Torino. Ecco. C'è anche il Festival Jazz, però io non rientro nel Festival Jazz, suono per il Salone del Libro. Che bello. Che bello. Quindi possono anche ascoltarti nelle tue performance canore. Sì, che poi è la cosa che mi diverte di più, no? La funzione primaria. Ma ecco perché io mi porterò questo, Antropologia della musica di Alan P. Merriam, perché in questo periodo è il mio migliore amico e anche la mia migliore amica. Soundcheck, il suono della musica. Mia cara Becca Stevens, io... Lettera Becca Stevens. Tu sei stata in Italia poco tempo fa perché sei stata in tournée con gli Snarky Puppy. Perché non mi hai fatto una telefonatina, Becca? Io che ti voglio così bene, io che ti bramo da anni, io che ti desidero da un punto di vista artistico, ma anche fisicamente, non posso mentire a me stesso, Silvia Barba. Io sono d'accordo con te, è migliorata. Hai visto quant'è diventata molto più elegante, molto più sofisticata? Ma io non avevo dubbi, se mai, no? Ce ne fosse stato bisogno. Anche se lei, quando io l'ho conosciuta, Becca Stevens, aveva quell'aspetto da ragazza di campagna del Wisconsin, no? che sta lì con le sue mucche, esatto, i vestitini a fiori. Okay. Però che musica che fa, ragazzi, scusatemi, questa è diplomata col massimo dei voti, una musicista completa, una cantante di un'intonazione, di una quadratura. No, per questo tutti le vogliono bene e tutti la vogliono. Beh, adesso è diventata proprio una regina vera e propria, indiscussa. Una regina, infatti si intitola Regina, il nuovo album di Becca Stevens, il brano era 45 Bucks, e in questo album, nel quale lei dedica le composizioni proprio alla regina Elisabetta prima. In qualche modo si risente, e credo che lei abbia studiato le operazioni discografiche di Sting quando si cimenta nel repertorio celtico, perché ci sono anche nelle cose più rock dell'album di Becca Stevens si risente molto Sting con i suoi Police. Eh sì, anche perché lei comunque rintraccia tra le sue, diciamo, influenze anche la musica irlandese, quindi la musica celtica di conseguenza. E allora Becca Stevens con Regina al soundcheck di Radio 24, dove adesso vogliamo andare proprio a qualcosa di, come dire, di che ci riporti un po' al tantan primordiale, anche per rifarci all'antropologia della musica di Alan P. Merriam, e quindi c'è un nuovo progetto che vi vogliamo segnalare. L'album sarà pubblicato fra pochissimo, ma noi abbiamo un'anteprima con la voce di Malika Tyrolean, vocalist canadese che è stata presente qui al soundcheck cantando in varie lingue, dall'inglese con gli Snarky Puppy, ma anche in francese, perché è francofona, da residente in Canada, no? Sì, anche una grande ballerina. Grande ballerina, ma qui si risentono le sue origini africane in questo progetto prodotto dall'instancabile, infaticabile Michael League. Il progetto si chiama Bocante e lei è Malika Tyrolean, e qui alzate il volume a palla. Soundcheck, il suono della musica. La saggezza di Eddie Palmieri, pianista che ha fatto la storia della musica latinoamericana, il ritorno di questo grande maestro per Rope Dope qui al soundcheck di Radio 24. Sabiduria, infatti, il titolo di questo album, quindi dicevi tu, Silvia, la saggezza, giusto? Esatto, Wisdom. Ma quanto è forte, io l'ho visto dal vivo, ma credo forse più di 20 anni fa, Eddie Palmieri con una super band lì a New York, e sono contento di questo grande ritorno che vi stiamo presentando qui al soundcheck con questo brano intitolato La Cancia. E ora siamo ai saluti, però prima di salutarci vorrei ringraziare Francesco Tromba e Silvia Barba per la partecipazione, ringraziare tutti voi per l'affetto che ci state continuando a dimostrare su tutti i nostri social network, che sono sempre attivi, e grazie a Silvia Barba e a Francesco Tromba siamo presenti, perché io purtroppo non mi dedico più di tanto, faccio dei saluti ogni tanto, ma siete voi, e vi ringrazio per il lavoro che state facendo. Hai altro da fare, noi ti diamo una mano. Ho altro da fare, ascolto musica, e poi soprattutto in questo periodo devo leggere Alan P. Merriam, Antropologia della musica, e appena chiudo qui tornerò, quindi non vengo a cena con voi, no, perché ho cose da fare, va bene? Va bene, ok. Va bene, allora ci vediamo a Torino, abbiamo detto, sì, la prossima settimana. Io dovrei partire il 17, perché il 18 apre il Salone del Libro, la Fiera del Libro di Torino, ma quest'anno c'è anche una sezione che riguarda la musica, ovvero Fiera Europea della Musica, che mi è stata affidata, e naturalmente gestiremo insieme a Gabriele Ferraris tutto questo reparto che riguarda showcase, incontri con artisti, interviste, ma insomma diventa anche un padiglione con un assortimento incredibile di discografia e libri che riguardano la musica, quindi sicuramente il music store più grande del nostro paese a Torino. Ringraziamo anche il direttore Nicola Gioia, che ha voluto fortemente questa sezione musicale. Nicola, ma poi è un grandissimo autore, scrittore, ha scritto un libro bellissimo, ne ha scritti diversi, ma poi la Feroce ha ottenuto anche grandi successi. Sì, ha vinto il premio Strega nel 2015. Nicola, mo ci vediamo a Torino. È di Bari, Nicola, quindi sì, con lui posso parlare il mio slang. Puoi preferito fare quello che vuoi. Signori, ci risentiamo comunque domani qui su Radio 24 a partire dalle 19:15, puntata dedicata a un campione della musica contemporanea. Di chi parliamo? parliamo di Anderson .Paak. Anderson .Paak, ladies and gentlemen, qui al Soundcheck Radio 24, domani alle 19:15. Buona serata e buona musica da Giorgia Telesforo, Silvia Barba e Francesco Tromba.